Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Fielding aveva una simpatia istintiva per gli oppressi, che era in parte il motivo per cui si era schierato con Aziz, ed era deciso a non lasciare la povera ragazza nelle peste. E poi, dopo quel colloquio, provava un nuovo rispetto per lei. Quantunque avesse ancora quell'aria severa da maestra, non esaminava più la vita, ma ne subiva l'esame. Era diventata una persona vera. Ma dove può andare allora? Con lei non si finisce più. Perché Miss Quested non aveva commosso Hamidullah. Se in tribunale si fosse mostrata turbata, fosse svenuta, si fosse battuto il petto, avesse invocato il nome di Dio, avrebbe smosso l'immaginazione e la generosità di quell'uomo, che era così largamente dotato dell'una e dell'altra. Invece lei, pur offrendo un balsamo alla sua anima orientale, l'aveva resa di ghiaccio, col risultato che egli non riusciva a persuadersi che fosse sincera. E dal suo punto di vista, infatti, non lo era. Perché il suo contegno poggiava sulla fredda giustizia e sull'onestà. Nel ritrattare non aveva sentito nessuno slancio d'amore per quelli che aveva disonorati. In quell'esigente paese il vero non è vero se non è accompagnato da bontà, bontà e ancora bontà, se la parola di Dio non è Dio essa stessa. E il sacrificio della ragazza, così lodevole secondo la mentalità occidentale, era giustamente respinto. Perché quantunque le venisse dal cuore, non coinvolgeva il suo cuore. Qualche ghirlanda offerta dagli studenti fu tutto quello che l'India le diede in compenso. «Ma Hamidullah, dove volete che vada a pranzare? Dove volete che dorma?» «Qui, dico io, qui!» «E se quei bricconi le danno un colpo in testa, se lo tiene. Questo è il mio contributo. D'accordo, Miss Quested? Siete molto buono». Dovrei accettare, credo, ma anch'io la penso come Mr. Hamidullah. Non devo darvi più fastidi. Credo che la soluzione migliore sia tornare dai Tartan e sentire se mi permetteranno di dormire da loro. E se mi cacceranno via, dovrò andare alla locanda. L'intendente mi accoglierebbe, questo lo so. Ma stamattina Mrs. Tartan mi ha detto che non vuole più vedermi. Parlava senza amarezza, o, come pensò Hamidullah, senza il dovuto orgoglio. Il suo solo intento era di disturbare il meno possibile. Meglio restare qui che esporvi agli insulti di quella donna assurda. La trovate assurda? Anch'io, una volta. Ora non più. Beh, ecco qui la soluzione, disse Hamidullah, che aveva prosciolto Fielding da quel suo abbraccio vagamente minaccioso e si era avvicinato alla finestra. Ecco che arriva Mr. Hislop, il magistrato di città. Arriva in una carrozza chiusa di terz'ordine per non farsi riconoscere, arriva senza scorta. Ma ecco che arriva il magistrato di città. «Finalmente», disse Adela con un tono brusco che fece alzare gli occhi a Fielding. «Arriva, arriva, arriva! Io mi inchino, io tremo!» «Vi dispiace domandargli che cosa vuole, Mr. Fielding?» «Vuole voi, naturalmente!» «Può anche non sapere che sono qui.» «Lo vedrò prima io, se preferite.» Quando Fielding si fu allontanato, Hamidullah le disse con sarcasmo: «Beh, francamente, avevate proprio bisogno di esporre Mr. Fielding a quest'altra seccatura? Quell'uomo è troppo riguardoso.» Adela non disse nulla e rimasero nel più assoluto silenzio finché non ricomparve il padrone di casa. «Ha da dirvi qualcosa», riferì. «Lo troverete nel portico. Preferisce non entrare.» mi chiede di andare da lui? Che ve lo chieda o no, dovete andarci, penso, disse Hamidullah. Lei tacque, poi disse, giustissimo. E aggiunse qualche parola di ringraziamento al direttore per la bontà che le aveva dimostrata quel giorno. Grazie a Dio, questa è fatta, osservò lui senza accompagnarla nel portico, perché non gli pareva necessario rivedere Ronnie. È stato offensivo a non entrare, osservò Hamidullah. Non aveva scelta, visto come mi sono comportato con lui al circolo. Islop non ne esce male. Del resto, oggi, il fato non è stato molto benevolo con lui. Ha ricevuto un cablo con la notizia che è morta sua madre, povera vecchia. Ah, davvero? Mrs. Moore? Mi dispiace, disse Hamidullah con una certa indifferenza. È morta in mare. Il caldo, immagino. Il caldo, sì, probabilmente. Il caldo. Maggio. Non è certo il mese più adatto per far viaggiare a una vecchia signora. È proprio così. Islop non avrebbe mai dovuto lasciarla andare, e lo sa. Hamidullah, dobbiamo metterci in cammino? Aspettiamo che la coppia felice tolga le tende. Ma è intollerabile che la facciano così lunga. Beh, figli, voi non credete nella provvidenza, me ne ricordo. Io sì. Questo è il castigo di Hislop, perché ha fatto sparire la testimone per impedirci di convalidare il nostro alibi. Beh, qui andate un po' troppo in là, riprese Fielding. La testimonianza di quella povera vecchia signora non poteva avere alcun peso. Strilli e strepiti quanto vuole Mahmoud Ali. Non poteva vedere attraverso il Kawadol, nemmeno se l'avesse voluto. Soltanto Miss Quested poteva salvare Aziz. Mrs. Moore gli voleva bene, dice Aziz. E voleva bene anche all'India, e lui la ricambiava. In un testimone l'affetto non conta niente, e un avvocato dovrebbe saperlo. Ma vedo che a Chandrapur sta per nascere una leggenda su Mrs. Moore, mio caro Hamidullah, e non sarò certo io ad impedire che si sviluppi. Sink into your eyes and all I see. Love is an ocean and you for me. L'altro sorrise e guardò l'orologio. Si rammaricavano tutti e due di quella morte. Ma erano uomini di mezza età, che avevano impegnato in altre cose i propri sentimenti, e da loro non ci si potevano aspettare crisi di disperazione per una vaga conoscente. Solo i propri morti contano. Se per un istante il senso della comunione nel dolore umano venne a visitarli, passò. Ma come può, infatti, un solo essere umano soffrire di tutta la tristezza in cui si imbatte sulla faccia della terra, della pena che affligge non soltanto gli uomini, ma gli animali e le piante e forse anche le pietre? L'anima si stanca subito e nel timore di perdere quel poco che capisce si ritrae verso i principi permanenti che l'abitudine o il caso hanno dettato e là soffre. Fielding aveva incontrato la morta solo due o tre volte. Hamidullah l'aveva vista una volta sola da lontano ed erano molto più presi dall'imminente riunione a Dilkusha, quel pranzo della vittoria al quale sarebbero vittoriosamente arrivati in ritardo. Decisero di non parlare ad Aziz di Mrs. Moore sino al giorno dopo, perché lui le voleva bene e quella brutta notizia rischiava di rovinargli la festa. Miss Quested era tornata. «Mr. Fielding, Ronnie vi ha parlato della sua nuova disgrazia?» Lui fece un piccolo inchino. «Oh, povera me!» Si sedette e parve impietrirsi in un monumento. Hislop vi sta aspettando, credo. Ho un tale desiderio di star sola. Era la mia migliore amica, molto più per me che per lui. Non sopporto la vicinanza di Ronnie, non so spiegarlo. Tutto sommato, vorreste essere così gentile da lasciarmi fermare qui? Abitullah imprecò violentemente nella propria lingua. Ne sarei lietissimo, riprese Fielding, ma Mr. Hislop lo desidera? Non glielo ho domandato, siamo troppo sconvolti. È così complicato, non come si crede che sia l'infelicità. Ciascuno di noi dovrebbe star solo e pensare. Andate a parlare con Ronnie. Credo che stavolta dovrebbe venire qui lui, disse Fielding, sentendo che alla sua dignità era dovuto almeno questo. Pregatelo di venire. Adela tornò con Ronnie. Egli era in parte infelice e in parte arrogante, uno strano miscuglio in realtà, e cominciò subito a parlare con voce rotta. Ero venuto a prendere Miss Quested, ma la sua permanenza dai Tarton è finita, e non c'è altro modo di sistemarla. La mia è la casa di uno scapolo ormai. Fielding lo interruppe gentilmente. Non dite altro, Miss Quested si ferma qui. Volevo soltanto essere sicuro del vostro consenso. Miss Quested, sarà meglio che facciate venire il vostro servo, se si può rintracciarlo. Comunque, io lascerò detto ai miei di fare per voi tutto quello che possono. Sono convinto che qui sarete al sicuro come in qualunque altro posto. Io tornerò giovedì. Intanto Hamidullah, ben deciso a non risparmiare al nemico nessun dolore supplementare, aveva detto a Ronnie: «Abbiamo saputo, signore, che vostra madre è morta. Possiamo domandarvi da dove veniva il cablogramma?» «Da Aden.» «Ah, in aula vi siete vantato che avesse raggiunto Aden.» «Ma è morta lasciando Bombay», proruppe Adela. «Era già morta quando stamattina gridavano il suo nome. Devono averla sepolta in mare.» In un modo o nell'altro, questo chiuse la bocca ad Hamidullah, ed egli la fece finita con quella crudeltà che aveva scosso Fielding più che chiunque altro. Mentre venivano discussi i particolari della sistemazione di Miss Questi dall'istituto, lui rimase zitto, limitandosi a dire a Ronnie: «Ben inteso, signore, né il signor Fielding né nessuno di noi è responsabile della sicurezza di questa signora all'istituto governativo.» E Ronnie fu d'accordo. Dopodiché si mise a osservare con tranquilla ilarità il contegno semicavalleresco dei tre inglesi. Pensava che Fielding era stato indicibilmente sciocco e debole, ed era stupito che i più giovani fossero così privi di giusto orgoglio. Mentre si recavano alla festa, con ore di ritardo, domandò ad Amritrao, che andava con loro: «Mister Amritrao, avete calcolato quale somma di risarcimento dovrebbe pagare Miss Quested?» «20.000 rupie.» Per il momento non fu detto altro, ma quella frase scandalizzò Fielding. Gli era insopportabile pensare che quella strana e onesta ragazza dovesse perdere il proprio denaro e probabilmente anche il fidanzato. D'improvviso essa si profilò più netta nella sua coscienza. E affaticato da quella giornata crudele ed eccessiva, perse la sua consueta e sana concezione dei rapporti umani e sentì che gli uomini non esistono in se stessi, ma nei termini in cui si pensano vicendevolmente, idea alla quale la logica non offre nessun sostegno, e che prima d'allora l'aveva assalito una volta sola, la sera dopo la catastrofe, quando dal portico del circolo aveva visto i pugni e le dita dei Marabar gonfiarsi fino a contenere tutto il cielo notturno. My web of creation whispers to me. Siete sveglio? Bisbigliò Fielding. No, quindi facciamo una chiacchierata. Sogniamo progetti per l'avvenire. Oh, io non valgo niente per i sogni. Allora buonanotte, amico mio. Il banchetto della vittoria era finito e i convitati giacevano sul tetto della casa del semplice Mr. Zulfikar, addormentati o intenti a fissare le stelle attraverso le zanzariere. Proprio sopra le loro teste pendeva la costellazione del leone e il disco di regolo era così largo e fulgido da sembrare una galleria. E una volta accettata questa immagine, sembravano gallerie anche tutte le altre stelle. «Siete contento di questa giornata, Mr. Fielding?» continuò la voce alla sua sinistra. «E voi?» «Se non avessi mangiato troppo!» «Come va lo stomaco? E la testa? Io dico che Panna Lale e Callender saranno licenziati!» «Ci sarà uno sconvolgimento generale a Chandrapur.» «E voi sarete promosso!» «Beh, retrocedermi non possono, qualunque cosa pensino.» «In ogni caso, passiamo le vacanze insieme!» continuò Aziz. «Andiamo nel Kashmir!» «E se è possibile, anche in Persia, perché avrò un mucchio di denaro!» «Come risarcimento del danno inferto alla mia reputazione», spiegò con cinica serenità. «Finché starete con me non dovrete spendere nemmeno un soldo. È quello che ho sempre desiderato e in seguito alle mie disgrazie l'ho ottenuto.» «Avete avuto una grande vittoria», cominciò Fielding. «Lo so, amico mio caro, lo so, non occorre che facciate quella voce solenne e preoccupata, so quello che state per dirmi. Astenetevi, oh, astenetevi dal chiedere i danni a Miss Quested, così gli inglesi potranno dire: ecco un indigeno che si è comportato proprio come un gentiluomo. Non fosse per la sua faccia nera, quasi quasi gli permetteremmo di iscriversi al nostro circolo.» «L'approvazione dei vostri compatrioti non mi interessa più. Sono diventato antibritannico e avrei dovuto decidermi prima. Mi sarei evitate parecchie disgrazie.» «Sì, dovreste proprio transigere sui danni», confermò Fielding. «Le spese deve pagarvele, questo è più che giusto, ma non trattatela come un nemico vinto.» «È ricca? Vi incarico di appurarlo.» «Le somme di cui avete parlato a pranzo, quando eravate tutti così euforici, la rovinerebbero. Sono semplicemente pazzesche. Guardate, sto guardando, sebbene sia un po' buio. Vedo che Mr. Fielding è proprio un tipo simpaticissimo, è il mio migliore amico, ma sotto certi aspetti un vero sciocco. Voi credete che transigendo sui danni renderò un servizio alla mia reputazione e a quella degli indiani in generale? No, no, lo attribuiranno a debolezza e al tentativo di ottenere una promozione in carriera. Per dire le cose come stanno, ho deciso di non aver più niente da fare con l'India britannica. Cercherò un lavoro in qualche stato musulmano, come Hyderabad o Bhopal, in Kashmir, dove gli inglesi non potranno più insultarmi. Non cercate di dissuadermi.» «Nel corso di un lungo colloquio con Miss Quested...» «Non voglio sapere niente dei vostri lunghi colloqui. State zitto. Nel corso di un lungo colloquio con Miss Quested ho cominciato a capire il suo carattere. Non è un carattere facile. È una saccentona, ma è assolutamente sincera. Ed ha avuto molto coraggio. Quando ha capito di avere sbagliato, si è fermata bruscamente e l'ha ammesso. Voglio che capiate che cosa significa. C'erano a spingerla tutti i suoi amici, l'intero impero britannico. Lei si ferma e manda tutto a catafascio. Al suo posto io avrei avuto paura, ma lei si è fermata e per poco non diventava un'eroina nazionale se i miei studenti non ci avessero trascinati in una traversa prima che la folla si entusiasmasse.» «Trattatela con una certa considerazione. Non è giusto che abbia la peggio con tutti e due i mondi.» «So quello che vorranno tutti costoro», e indicò le forme ammantate sul tetto, «ma voi non dovete ascoltarli. Abbiate compassione. Comportatevi come uno dei vostri sei imperatori mogul, o come tutti e sei concentrati in uno. Nemmeno gli imperatori mogul mostravano compassione finché non avevano ricevuto una scusa. Ma si scuserà, se è questo che vi preme, esclamò Fielding alzandosi a sedere. Sentite, vi faccio una proposta. Dettatemi voi stesso il tipo di lettera che volete e domani a quest'ora ve la riporterò firmata. Questo non sostituisce nessuna di quelle pubbliche scuse che potrà farvi per via legale. È un di più. Caro dottor Aziz, quanto vorrei che foste venuto nella grotta. Sono una vecchia arpia orribile e questa è l'unica possibilità che mi rimanga. Questa la firmerà? Beh, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ormai è tempo di dormire. Buonanotte? Credo di sì. Oh, quanto vorrei che non diceste certe frasi, riprese Fielding dopo una pausa. È l'unica cosa di voi che non posso tollerare. Io di voi tollero tutto. E allora come si fa? Beh, parlando in quel modo mi avete ferito. Buonanotte. Ume gyanati mirandasya ginanjana shalakaya Chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Ci fu un silenzio. Poi, come in un sogno, ma con profondo sentimento, Aziz disse: Mr. Fielding, mi è venuta un'idea che soddisferà il vostro animo tenero. Consulterò Mrs. Moore. Aprendo gli occhi e scorgendo migliaia di stelle, lui non poté rispondere. Lo riducevano al silenzio. La sua opinione risolverà tutto. Posso fidarmi ciecamente di lei. Se mi consiglia di perdonare a quella ragazza, lo farò. Lei non mi consiglierà mai niente che possa ledere il mio vero, profondo onore come potreste fare voi. Ne parleremo domattina, rispose Fielding. Non è strano, riprese Aziz. Continuo a dimenticare che Mrs. Moore ha lasciato l'India. Quando gridavano il suo nome in tribunale, mi immaginavo che fosse presente. Avevo chiuso gli occhi, mi ingannavo di proposito per soffocare il dolore. E adesso, in questo preciso istante, avevo dimenticato di nuovo. Sarò costretto a scriverle. Ora lei è molto lontana, già avanti nel suo cammino. Fielding non parlò più. I fatti sono fatti, e la mattina dopo la morte di Mrs. Moore sarebbe stata nota a tutti. Ma lo colpì che le persone non sono veramente morte finché non si sente che sono morte. Fino a quando c'è un equivoco sul loro conto, posseggono una specie di immortalità. Una sua esperienza personale lo confermava. Molti anni prima aveva perduto una sua grande amica, una donna che credeva nel paradiso cristiano e gli assicurava che dopo i casi e le vicende di questa vita mortale si sarebbero rincontrati. Fielding era un ateo puro e schietto, ma rispettava ogni opinione della sua amica. Questo è essenziale nell'amicizia. E per un certo tempo gli era parso che la morte lo aspettasse. E quando quell'illusione era svanita, aveva lasciato dietro di sé un vuoto che era quasi una colpa. Questa è proprio la fine, aveva pensato lui. E io le ho dato il colpo di grazia. Sera, sul tetto della casa del Nawab Bahadur, aveva cercato di uccidere Mrs. Moore, ma lei ancora gli sfuggiva e l'atmosfera rimase tranquilla. Poi sorse la luna